cartellone di Elisabetta Fiorito. Quest'oggi, buongiorno a tutti, per questa puntata di Cartellone andiamo a Milano dove c'è la festa del teatro. Buongiorno Fiorenzo Grassi, organizzatore e presidente dell'AGIS Lombarda. Buongiorno. Quante sorprese durante questo weekend milanese? Beh, 200 spettacoli in 100 luoghi, questa è già una grande sorpresa, una bella abbuffata di teatro che... diciamo riempirà un weekend autunnale. Quanto si paga per entrare a teatro? Quali sono i teatri aperti? Come si svolge tutto? Sono tutti i teatri di Milano e dell'immediata provincia, compresa la provincia di Montebrianza. Si paga 4 euro e si può prenotare online e allo spazio Oberdan, dove è previsto una biglietteria, è previsto già... diciamo insiste da un po' di giorni ormai una biglietteria. Devo darvi qualche dato: nei primi due giorni abbiamo venduto più di 20.000 biglietti, risultano esauriti molti teatri ormai, ma spazio ce n'è ancora, e stimiamo di poter avvicinare con questa festa del teatro, tra gli spettacoli a pagamento e le altre iniziative, circa 80.000 spettatori. Più di quanti ne abbia il derby Inter Milan. Meno male, noi siamo contenti. Tifiamo, non tifiamo né il Milan né Inter, però tifiamo teatro. E ricordiamo allora che per saperne di più basta cliccare sull'AGIS Lombarda. E noi adesso abbiamo sentito una musica appena iniziata la trasmissione, ne sentiamo un altro pezzetto. Tu ne vivi una puntata dedicata sia alla festa del teatro di Milano ma anche un po' al musical, e quello che sentite sono le note di Pinocchio. Ma insomma, chi ha scritto le musiche? Le musiche sono scritte da certi musicisti che si chiamano Dodi Battaglia, Red Canzian e Roby Facchinetti, che facevano parte di un gruppo un po' famoso che si chiamavano i Pooh. Allora diamo il benvenuto, scherzi a parte, a Saverio Marconi, il regista di Pinocchio. Buongiorno Saverio. Buongiorno, buongiorno a tutti. E a Riccardo Simone Berdini, che interpreta proprio Pinocchio. Buongiorno. Buongiorno. Allora Saverio, voi siete da lunedì 26 in esclusiva per il pubblico della festa, aprite Pinocchio, questo musical che riprende ovviamente la storia di Collodi. Certo, certo, sì, sì, un po' rivista, insomma, un po' aggiornata, perché giustamente Pinocchio può essere interpretato in mille modi differenti. La nostra è abbastanza tradizionale da un lato e abbastanza innovativa da un altro, perché il nucleo di Pinocchio è la famiglia. La famiglia, addirittura? La famiglia, sì, la famiglia. Cioè, perché... cioè Papà Geppetto e la Fata Turchina che fa una sorta di zia? No. C'è una novità, perché la Fata Turchina è stata sempre nella storia originale, c'ha due personaggi, si chiama la bambina da capelli turchini e poi la signora, è diventata grande poi, man mano che va avanti la storia. Nella nostra vicenda la Fata Turchina è sempre una bambina, invece la parte più umana è un personaggio particolare che si chiama Angela, che è stata una fidanzata di Geppetto, diciamo, quindi Angela era il nome della mamma di Collodi, appunto. Questa strana famiglia di persone, che Geppetto è uno scapolo impenitente, che decide di costruirsi questo burattino per gioco, è come fare un figlio per gioco, e si ritrova un po' nei guai, perché questo burattino parla, salta, ne combina tutti i colori e quindi mette in agitazione il povero Geppetto, che però lo tratta sempre come un oggetto, come fosse una sua, di sua proprietà, ecco. ecco. Quindi una riscrittura, ecco, non è proprio, insomma, chi va a vedere questo musical, a parte sentire le musiche dei Pooh, può anche divertirsi, perché nulla è scontato, non è esatto, proprio la sì. favola di Pinocchio. È sì, un po' quella naturalmente, ma con una tematica molto più attuale, perché è quello del rapporto genitori-figli. Allora, sentiamo un po' che cosa ne pensa Riccardo Simone Berdini, che interpreta Pinocchio. È difficile interpretare il burattino di Collodi? Beh, sicuramente uno dei ruoli più difficili nel panorama del musical italiano di oggi. È un personaggio più complesso di quello che noi conosciamo, almeno in questa versione diretta dal maestro Marconi. È un personaggio che deve prendere consapevolezza, deve prendere coscienza di sé, deve prendere coscienza di ciò che è bene e ciò che è male, deve intraprendere un percorso per imparare quello che conta veramente nella vita e, nella fattispecie, appunto, i valori familiari, che forse sono la cosa più importante di tutte, che al giorno d'oggi specialmente magari sono un po' tralasciati, ecco. Allora, Saverio Marconi, che un po' ha riscritto tutto questo Pinocchio, voi sarete quindi lunedì all'Allianz Teatro, giusto? Sì, per la festa del teatro devo dire che siamo uno dei teatri che ha fatto tutto esaurito in praticamente 3 ore. In 3 ore sono stati venduti tutti e 1700 biglietti. E poi iniziate una tournée e noi vogliamo anticiparla, perché sempre certo. l'11 e il 15 novembre siete all'Allianz Teatro, poi siete a Recanati, a Bari, a Piano di Sorrentino, a Vigevano, a Brescia, a Torino. Sì, per sì, finire poi il 23 aprile a Napoli e il 4 maggio addirittura a Roma, insomma, a Roma, al Teatro Sistina, no? Il sì. teatro del musical per eccellenza. Esatto. E ricordiamo lunedì 26 in esclusiva per il pubblico della Festa del Teatro di Milano, quindi l'anteprima del nuovo tour del musical a firma di Saverio Marconi, basato sulla favola di Collodi, Pinocchio, all'Allianz Teatro di Milano con le musiche dei Pooh. In bocca al lupo Saverio e Riccardo. Cartellone. È una storia d'amore. Michelina viene reclutata da Arturo. Michelina, devi essere sensuale. E ti ha mettere spogliata per fare l'artista. Marie, champagne, toilette, sono una soubrette. Questa mondina diventa una soubrette, ma veramente di serie Z, diciamo. Difficile. E proseguiamo quindi con questa carrellata sui musical al Teatro Franco Parenti di Milano, sempre per la Festa del Teatro. Michelina, dal 23 ottobre fino al 1 novembre, una commedia musicale di Edoardo Erba. Maria Amelia Monti e Gian Piero Ingrassia sono qui con noi oggi a Cartellone. Maria Amelia Monti, che ruolo interpreta? E io interpreto questa Michelina, che intanto lo spettacolo è ambientato nel dopoguerra, negli anni 48, diciamo, e c'è questa mondina che praticamente viene abbordata da questo cantante sentimentale molto sgangherato, che è appunto interpretato da Gian Piero Ingrassia, che è disperato perché ha la sua soubrette è scappata, è rimasta incinta di un carabiniere, per cui guarda le gambe di questa mondina un po' che sta mangiando il formaggio durante una pausa della monda e le offre di diventare soubrette. E per cui parte l'avventura di Michelina, che diventa una soubrette, e però poi a un certo punto si innamora di un cardinale. Cioè ho saltato un po' di passaggi, però è una storia d'amore, perché questa soubrette si innamora di un cardinale. Insomma, uccelli di rovo in ava spettacolo. Sì, diciamo Uccelli di Rovina va a spettacolo, può essere un paragone giusto, è una commedia, la regia di Alessandro Benvenuti, gli attori, il cardinale appunto Amerigo Fontani, poi c'è parlo del Vaticano, Mauro Marino che fa quello, il capo del Vaticano, cioè il cattivo diciamo, poi c'è Gianni Pellegrino che fa l'assistente del cardinale, il pretino calabrese assistente del cardinale, poi c'è Annalisa Amodio che fa a un certo punto compare questa santa. Adesso io poi non sto a raccontare. Insomma, c'è molta carne, c'è molta carne al fuoco. C'è molta carne, poi le musiche sono di Federico Odling, la produzione del Teatro Stabile di Firenze di Roberto Toni, ma è uno spettacolo che l'anno scorso è andato veramente benissimo, siamo anche stati un mese al Manzoni a Milano, siamo andati molto bene e adesso ritorniamo a grande richiesta al Franco Parenti. Giampiero Ingrassia, un cardinale innamorato? Io non sono il cardinale, attenzione. Lei è l'impresario? Io sono l'impresario farabutto e imbroglione che circuisce Michelina, Maria Amelia, e la convince a lasciare la monda per diventare una soubrette, ma in realtà insomma lui è un grande saltrone, è un capocomico da uno spettacolo di terz'ordine che vuole arrivare allo Iovinelli e farà delle cose non proprio bellissime per arrivare allo Iovinelli, anche se poi si pentirà di tutto quello che ha fatto. A chi si è ispirato? Beh, allora, devo essere sincero, mi sono ispirato un po' a delle vecchie figure dell'avanspettacolo, soprattutto a un film di Luciano Salce che era Basta guardarla. È un film degli anni 70 che parlava appunto di una compagnia di spettacolo dove c'erano sia Giuffrè che Salce, appunto, che facevano due capocomici molto divertenti e ho cercato in maniera molto, per carità, con tutto il rispetto, di ispirarmi un po' a loro, comunque anche ai racconti che conosco sulla spettacolo. Conosce perché? Su queste compagnie di scavalcamontagna, per insomma anche tantissimi racconti sentiti, ma insomma poi la storia dell'avanspettacolo si conosce, poi insomma tramite anche i racconti di mio padre, eccetera, eccetera. Ma io mi immagino sempre l'avanspettacolo, mi rimane sempre Polvere di Stelle con Alberto Sordi e Monica Vitti. Ecco, ma Polvere di Stelle già era dei gradini in su rispetto a Arturo Bonavia, che è veramente uno che va in giro con una macchina sgangherata, che recluta appunto tra le risaie la sua nuova soubrette, la nuova stella da lanciare, quindi ecco, insomma, questo è il panorama. Quindi, allora, lei è l'impresario un po' malandrino, poi c'è esatto. Il cardinale, chi lo fa? Poi c'è Amerigo Fontani che fa questo, il Richard Chamberlain della situazione. Certo. E poi Maria Amelia Monti appunto che fa la mondina soubrette e poi l'amante del cardinale. Insomma, questa Michelina ne fa una più del diavolo, Maria Amelia. Sì, è un personaggio veramente simpatico e poi anche commovente, perché lei fa tutte le cose in buona fede. E lei è una romanticona, è veramente un personaggio scritto appunto da Edoardo Erba, che a cui sono affezionatissima e per cui sono molto contenta di riniziare la tournée e vi aspetto a teatro. Insomma, un modo di riscoprire l'avanspettacolo. Ricordiamo, Teatro Franco Parenti di Milano, è iniziato il 23 ottobre, va avanti fino al 1 novembre. Michelina, una commedia musicale di Edoardo Erba con Maria Amelia Monti e Giampiero Ingrassia. Allora, tutti quanti a vedere che cosa succederà a Michelina. E quello che state ascoltando è il coro ispanico-americano di Milano. Insomma, oggi, sabato 24 ottobre alle 21 alla Palazzina Liberty di Milano, si festeggia il 25esimo anniversario di attività del coro ispano-americano di Milano, un concerto ad ingresso libero fino a disponibilità dei posti, un'occasione in Italia, dal Cile anche arriva il maestro Marco Dusi e noi qui a Cartellone lo ospitiamo ben volentieri. Buongiorno maestro. Buongiorno. E buongiorno anche a Tonka Mimica Silva, fondatrice del coro ispano-americano. Buongiorno Radio 24. Allora Marco Dusi, 25esimo anniversario di attività, quanti concerti e come vi è venuto in mente di fare questo coro ispano-americano a Milano? Risponde a una spinta di nostalgia, no? Perché nostalgia verso il Cile, che è la nostra patria, diciamo seconda patria di Tonka e mia, e anche il desiderio di far conoscere un patrimonio musicale, corale, con radici della tradizione latinoamericana, che pensavamo sarebbe stato molto interessante per l'ambiente, per la cultura anche del pubblico italiano, ecco. Tonka. Una mescolanza di ambizione culturale, ma anche di nostalgia per quei paesi. Tonka, le manca il Cile? Abbastanza, però sono molto felice di essere anche in Italia. Ecco, comunque questo concerto vuole essere una gioiosa e anche profonda riflessione nostra, condivisa con gli ex coristi, con i cittadini di Milano, del nostro percorso artistico-culturale, che è carico di un impegno e di passione verso la musica, la cultura e il sociale. Quindi, insomma, un modo per riscoprire questa terra, il Cile, e anche un pochino per riscoprire tutto il Sud America? Sì, un'apertura. Ecco, personalmente io sono un testimone del violento colpo di Stato del Cile del 73, no? In cui il peggio dell'essere umano ancora una volta fu elevato al sistema politico-economico. Noi ci ricordiamo gli intillimani che arrivarono, esatto, in Italia, no? Esatto, sì, e questo fu una ragione per cui la mia vita è cambiata radicalmente ancora quando ero giovane, e questo mio forzato autoesilio mi fece allontanare violentamente dalla mia famiglia, dai miei affetti, dalla mia cultura, dalla mia società umana. E in quel periodo erano anni terribili in America Latina in generale, regnava l'ingiustizia sociale, erano calpestati i diritti, i più elementari diritti umani, e così, che oggi per fortuna è finito, diciamo, in qualche modo si sta cercando di consolidare una democrazia in tutta America Latina. Io allora portavo soltanto la mia cultura, infine per questa mia affezione io ho approdato in Italia dopo aver girato diversi paesi e così via, e quindi nasce questo coro qui che a me ha dato la possibilità di dare e ricevere, di conoscere e amare il meglio dell'essere italiano. E il mio incontro col maestro Dusi è per me è un grande momento della mia vita, e da lì io sempre ho concepito questo coro come un mezzo per esprimere non solo il mio piacere per il canto, che il maestro ci ha veramente preparato e insegnato tanto, bensì anche come uno strumento per comunicare e trasmettere la mia esperienza culturale. E ho trovato un gruppo che è aperto, predisposto ad accogliere un'esperienza musicale diversa dalla italiana. E oggi questo gruppo si trova arricchito, rinnovato. Ma sono tutti italiani? In gran parte italiani. Un attimo per capire, Marco Dusi, pure lei è nato in Cile? No, io lei è italiano? Sono italiano, sono nato a Milano, ho studiato a Milano nel Conservatorio Verdi e sono andato in Cile per un contratto che mi hanno offerto del Teatro Municipale. Ma poi ho lavorato molto nelle università cilene con i gruppi corali e anche con l'orchestra sinfonica, e ho ho vissuto anche le esperienze che Tonka le ha illustrato poco fa. Anch'io sono stato, ho dovuto allontanarmi dal Cile, che ormai era la mia seconda patria, perché le condizioni umane, artistiche, culturali erano insopportabili, no? Beh, perciò questo qui a Milano, dove sono tornato in quei periodi, in quei giorni, no? Ho trovato una cilena, Tonka, e poi anche altre persone che stavano in contatto con l'ambiente culturale. E quindi siete quindi riusciti a fondere queste due istanze. Allora ricordiamo, questa sera, sabato 24 ottobre, alla Palazzina Liberty di Milano, alle ore 21, si festeggia il 25esimo anniversario di Attività con un concerto ad ingresso libero. Dirige il maestro Marco Dusi, la fondatrice, poi ci sarà anche lei, Tonka Mimica Silva. E allora sentiamo un altro piccolo assaggio di questa serata. Cartellone. La prima volta che vidi qualcuno che veniva da laggiù, avevo 7 anni. Era un cugino di mio padre, arrivò dalla campagna direttamente in terrazza. Mi chiese se era la casa giusta, fece il nome di mio padre. E dopo che entrò in casa, con addosso un cappotto militare, lui e mio padre chiusero la porta e parlarono per 3 ore. Quando smisero di parlare, capii che si erano detti qualcosa di molto importante. Ma solo con gli anni mi arrivarono i dettagli di quella storia, indirettamente però, non da mio padre. Il cugino di mio padre era un ufficiale dell'Armata Rossa nella Seconda Guerra Mondiale ed era stato in un campo di prigionieri di guerra dove aveva sempre rischiato la vita perché era l'unico ebreo nel campo e durante la sua permanenza aveva sempre dovuto nascondere il fatto di essere circonciso. Divenne un grosso problema quando fu infettato dal tifo, ma fu protetto durante tutta la malattia da un suo amico, un ufficiale russo, e questo gli salvò la vita. La cosa più importante che mio cugino disse a mio padre dietro la porta fu che tutta la famiglia era stata sterminata. E sentiamo queste parole terribili per introdurre il nostro argomento, l'argomento di questa parte di Cartellone. Il monologo è di Daniel Horowitz, la messa in scena è di Mauro Maurino, andrà in scena alle 21 di lunedì al teatro per il Festival di Letteratura Ebraica, Lo Zio Arturo. E questo festival è in programma da oggi fino a mercoledì 28. Allora, ascoltiamo che cosa ci deve dire Ariela Piattelli, che è l'organizzatrice di questo evento romano che, ricordiamo, è in scena alla Casa dell'Architettura vicino a Piazza Vittorio a Roma. Buongiorno Ariela. Buongiorno. Siamo arrivati alla seconda edizione del Festival Internazionale di Letteratura Ebraica. Brevemente, quest'anno abbiamo deciso di dedicare il festival, io insieme agli altri curatori che sono Shulin Fogelman e Raffaella Spizzichino, alla storia e l'attualità perché comunque nel popolo ebraico tutta la letteratura e tutta la cultura ebraica, se vogliamo, è fondata appunto sul concetto di storia e di memoria. Dunque ci siamo trovati quest'anno a prendere questa decisione e oggi inauguriamo alla grande con un grande scrittore, con Benny Morris, che ha raccontato il conflitto israelo-palestinese da un altro punto di vista rispetto appunto a come viene raccontato in generale da altri autori e giornalisti, che verrà intervistato da Antonio Monda. E poi continueremo questo programma domani, domenica, con alle 11, sì, quindi c'è un incontro, sì, alle 11 e uno alle 21. Sì, esatto, con ci interroghiamo un po' sul mestiere dello storico. Dunque sentiremo alle 11 tre storici, due storici ed un rabbino che è Roberto Della Rocca, che ha scritto molto sulla storia ebraica, e con David Bedussa e Anna Foa. La sera alle 21 tornano due nomi molto importanti del mestiere appunto dello storico, che sono Carlo Ginzburg, che tutti conosciamo, e di nuovo Benny Morris, appunto per sentire due voci autorevoli a confronto. E lunedì, poi c'è lunedì le voci di donne, la diaspora tra Novecento e il Nuovo Millennio, con Dalia Sofer, giusto? Sì, Dalia Sofer è una scrittrice ebrea che è nata in Iran e ad oggi vive a New York. Ah, quindi ebrea iraniana. Sì, ebrea iraniana, quindi insomma figuratevi che cosa... Era una grandissima comunità, questo si sa poco, sì, no? Che sì, gli ebrei iraniani erano una grandissima comunità e piano piano si sta sempre più assottigliando, perché molti ebrei iraniani preferiscono ovviamente emigrare. Ma diciamo che gli ebrei ci sono... ce ne sono ancora. Piccolissimo, molto ridotto ebraico, perché... sono state vittime di persecuzioni. Di persecuzioni terribili. Sì, sì. Poi abbiamo sentito il monologo di Daniel Horowitz, lo zio Arturo. È teatro, ma sempre alla Casa dell'Architettura, sì, di Piazza Manfredo Fanti. Sì, perché noi appunto cerchiamo di fare, come dire, un festival metalinguistico, no? Mm-mm. Quindi iniziamo con la serata di lunedì, introdurremo un po' l'argomento della memoria, mm-hmm, che poi riprenderemo alla grande, diciamo, con e autorevoli ospiti il martedì. Con scrivere il presente, io sintetizzo un po' la letteratura, sì, l'impegno, poi c'è un incontro quindi alle 18:30, le frontiere invisibili. No, questo alle 21, le frontiere invisibili della memoria. Con Nahum Barnea, che è il più grande giornalista israeliano. E due grandi giornalisti italiani, Mario Calabresi e Maurizio Molinari. Esatto. E questo, diciamo, è uno degli eventi principali, perché si parlerà appunto di memoria e terrorismo tra Italia, Israele e Stati Uniti. Poi c'è Vintage, sì, rileggere Bernard Malamud. Sì. E poi con Gavronsky e Affinati. E invece mercoledì 28, sempre Tel Aviv, storia di una città, i condomini di Tel Aviv. E poi Luci della città, New York, la città bianca, e finite anche con Maurizio, sì, Molinari. Sì, concludiamo il festival dedicando appunto una sessione, un panel a Tel Aviv, che quest'anno compie 100 anni e dunque abbiamo deciso di concludere con un omaggio a questa città. Ariela, una domanda però, sì, io ce l'ho per lei. Chi è il suo scrittore israeliano preferito o il suo scrittore ebreo preferito, perché non è detto che ci sono due tipi di letteratura? Io ce l'ho, il mio è Amos Oz, però anche David Grossman mi piace. Però vorrei sapere da lei, uno ce lo deve dire, il più grande scrittore, il libro che lei vorrebbe che tutti leggessero. Ma io sicuramente, il mio scrittore preferito l'abbiamo ospitato l'anno scorso, ed è Edgar Keret. Ah, bellissimo, bravissimo lui, ha scritto, sì, Gaza Blues, è un libro molto molto bello. Sì, e io consiglio Io sono lui, la sua raccolta di racconti, che è bellissima. Perfetto, allora Io sono lui, quella non l'ho letta e la leggerò, e consiglio sempre di Edgar Keret, che è uno giovanissimo scrittore israeliano, ricordiamo che scrive solo racconti, anche Gaza Blues, che è un libro scritto per la pace, poi, no? Giusto, Ariela? Allora, noi ringraziamo Ariela Piattelli, e per voler saperne di più bisogna assolutamente andare, ricordiamo, da questa sera alle 21 si parte con il Festival Internazionale di Letteratura Ebraica, vicino a Piazza Vittoria a Roma, alla Casa casa dell'architettura, Piazza Manfredo Fanti. Grazie Ariela e in bocca al lupo. Crepi. Che te, dendù, malimortè, ma come parlate? Questo è il grande equivoco. Voi non usate delle parole, no, voi usate dei fonemi indistinti. Questi che possono durare fino all'infinito. Ma volete mettere la fondita, la cassella, la bagna cauda. Ma non sentite che grazia, che respiro. Oddio, respiro. L'alito dopo la bagna cauda lascia un po' a desiderare, ma non sentite che musicalità in questi termini? La fondita, la cassola, che magari si rinfaccia appena una settimana, ma la volete mettere capagliata? Che poi quello che fa più rabbia è che la fondita è molto più pesante della pagliata, ma è il nome che rende pesante la pagliata, il nome è tutto, è il primo impatto con la materia. E quello che avete sentito è Massimo Wertmüller nei dolori del giovane Wertmüller, un testo di Gianni Clementi che ha debuttato questa settimana alla Sala Umberto di Roma e che ci rimarrà fino all'8 novembre. Uno spettacolo un po' scanzonato su Roma, Roma e non solo, come avete sentito, sulla nostra società, su quello che è l'Homo sapiens e l'evoluzione della specie. Ricordiamo Massimo Wertmüller, i dolori del giovane Wertmüller, e ascoltiamo un altro brano. Sala Umberto di Roma fino all'8 novembre. Siete mai stati sulla spiaggia Ostia? Andate, andate, andate. C'è star mondo tatuato su ste chiappe, tutto il mondo, aquile de un metro quadro, indiani a cavallo, senza cavallo, anaconde giganti, coccodrilli, ma no quelli dei magliette, e gli ideogrammi cinesi. Ma dico, ma informatevi da un interprete prima di andare a fare questi ideogrammi, no? L'altro anno passeggiavo con un amico mio laureato in lingua orientale su una spiaggia e mi sono fatto tradurre un paio di chiappe. Sulla prima c'era scritto l'equivalente in cinese di «Ma l'hai spento il gas?». Sulla seconda, sempre in cinese, «Mi moglie batte». Mannateci con l'interprete da cinese, no? E si è aperta questa settimana a Roma, nella Sala delle Bandiere del Quirinale, una mostra molto importante, Giordania. Gioielli perfettamente conservati, utensili della vita quotidiana, statue, basso rilievi. 60 capolavori, molti dei quali usciti per la prima volta dai musei di Petra e di Amman. Dal lontano neolitico all'impero ottomano. Alessandra Skepisic è andata per noi e ha intervistato Louis Godard, consigliere per la conservazione del patrimonio artistico della Presidenza della Repubblica. Queste civiltà che hanno occupato la Giordania a volte si sono scontrate. Parlo semplicemente di uno degli episodi più clamorosi e anche tragici della storia delle crociate, quando intere armate sotto la bandiera della croce o sotto la bandiera della mezzaluna, in nome del proprio Dio, hanno tentato di annientarsi a vicenda. E la cosa fantastica è che all'indomani di questi scontri il mosaico giordano si è sempre ricomposto in modo armonioso. Questo è lo spirito di questa mostra: far vedere attraverso le infinite successioni di popoli sul territorio della Giordania questo mosaico che si ricompone in modo armonioso per trasmettere un messaggio di cultura e di pace in una regione che ha bisogno di cultura e di pace. Ricordiamo quindi la mostra Giordania, aperta nella Sala delle Bandiere del Quirinale fino al 31 gennaio, un'occasione per scoprire la Giordania, ma anche un'occasione per vedere la magnificenza del Palazzo Presidenziale. Cartellone. E adesso andiamo a vedere che cosa è successo di eclatante questa settimana in Italia. Sì, perché c'è stata una prima al Teatro Olimpico di Roma, una prima nazionale. È arrivato in Italia un musical importantissimo, Avenue Q, un musical politicamente scorretto e che è stato un successo sia a Broadway sia a Londra. Noi siamo andati alla prima e siamo andati a curiosare su cosa è avvenuto dietro le quinte prima. e poi anche davanti al palcoscenico, perché è stata una serata piena di VIPs, come si dice in gergo. Insomma, i VIP erano molti e c'era anche persino il Pippo Nazionale, Pippo Baudo. Prima però abbiamo sentito il regista dello spettacolo, che sarà in scena all'Olimpico fino al 1 novembre, il regista Stefano Genovese. Un successo megagalattico come è stato in tutto il mondo. No, ci aspettiamo un grosso riconoscimento. Abbiamo fatto un lavoro secondo noi pulito, fatto come deve essere fatto, con tutte le armonie, la recitazione, la ricerca dei personaggi. Abbiamo fatto il nostro spettacolo, non è la copia degli attori della produzione di Broadway, non è la copia di Londra. I nostri attori hanno costruito, sui nostri attori abbiamo costruito dei personaggi, il nostro Avenue Q in italiano, quindi anche con un po' di senso dell'umorismo italiano, senza snaturare quello che è la lo humor, il sarcasmo e l'ironia che ha fatto vincere 3 Tony Awards e ha portato questo spettacolo in tutto il mondo praticamente. I pupazzi di Arturo Braghetti, quindi diversi da quelli di Londra. Sì, apposta perché volevamo fare il nostro spettacolo. Ho chiesto a Arturo, non è che mi disegni i pupazzi di Avenue Q, lui l'aveva già visto, era entusiasta, e quindi Arturo è un amico, un collaboratore, abbiamo lavorato tanti anni insieme, e quindi li ha disegnati e sono diventati altri pupazzi, altri personaggi, e anche lui, senza far nomi perché non vogliamo sbilanciarsi, si è ispirato dei personaggi italiani, dei VIP italiani, che hanno portato appunto questi nuovi pupazzi, sono i nuovi abitanti della nostra Avenue Q. Non è che c'è qualcuno che somiglia, non so, a Berlusconi, un altro a D'Alema? No, no, no, assolutamente. Noi siamo, è uno spettacolo politicamente scorretto e molti si aspettano che ci sia della politica, ma il politicamente scorretto è un'altra roba. Noi parliamo di razzismo, di precariato, di omosessualità, di tanti argomenti della vita adesso, attuale. Che sfiga essere single, senza soldi e quasi. Oh mio Dio, sono vecchio! 23. Che sfiga che ho. Presto! Siamo qui per tirarti su! No. Oddio, sei così grigio! Che ne dici di un sorriso? Mi dispiace ragazzi, non funziona. Ah, perché per divertirci un po' non ci guardiamo una puntata di Arnold? Già, magari ci andiamo anche ieri a guardarla con noi. Non funziona! Beh, puoi sempre farla finita. Già, qui c'è questa corda per te. Ma io non voglio farla finita. Oh. Perché non ve ne andate ragazzi? Oggi non sei il nostro amico. Allora, cosa ne pensa di questo Avenue Q? Beh, è un musical originalissimo, indubbiamente con degli interpreti eccezionali, perché muovono i pupazzi e cantano contemporaneamente con una perfezione, una grazia, una forza musicale eccezionali, veramente. Quindi i due protagonisti che poi muovono più pupazzi sono veramente fuori dal comune. Ma non è facile, perché la storia è esile come tutte le storie ovviamente da commedia musicale, ma c'è il problema che ogni cantante è anche un pupazzo, deve portarsi il pupazzo a spasso, devi dargli l'espressione al pupazzo e contemporaneamente cantare. La cosa che mi ha stupito moltissimo è la preparazione musicale dei cantanti, perché gli arrangiamenti sono molto buoni, un'orchestra ottima, ma tutto spinto verso l'alto e non sbagliano una nota. Princeton! Ehi! Nessuno ti vede da 2 settimane, si può sapere che succede? Sono stato a lavorare un telefono amico, ma mi hanno licenziato perché ero troppo depresso al telefono. Ho sforato con la carta di credito, ho 2 mesi di affitto arretrato, ho totalmente trascurato la mia persona e ancora non ho trovato il sogno della mia vita. Ah. Le piace a Lorella Cuccarini questo Avenue Q? Molto, io l'avevo già visto a Broadway, per cui sapevo cosa mi aspettava. Ero molto incuriosita dal vedere come avessero tradotto e come avessero soprattutto personalizzato per l'Italia, no? Perché è chiaro, insomma, che lo spettacolo scorretto americano non poteva essere quello italiano. Devo dire, hanno fatto un ottimo lavoro di traduzione dei testi e di adattamento, naturalmente. E gli artisti, i cantanti? Bravissimi, poi cioè io ho un pezzo di cuore sul palco perché ci sono due degli attori principali che hanno fatto Grease con me nella prima e nella seconda edizione, quindi insomma sono bravi, sono bravissimi, cresciuti, poi questo è Insomma, è un ruolo anche molto complesso, perché non vivono loro ma sono a servizio di un pupazzo che prende vita e che quasi quasi poi a un certo punto ti fa dimenticare che esistano gli attori, no? Quindi veramente un lavoro straordinario, bellissimo. Vuoi sentire una barzelletta? Allora, c'è un polipo in coda al supermarket e nel suo cestino ha un barattolo di zuppa, un vibratore e una rossa con delle tette giganti! E? Non ho ancora trovato la battuta finale, hai qualche idea? Oddio! Cosa ne pensa Massimo Lopez di Avenue Q? Allora, mi sta piacendo molto, io ho visto anche la versione a Londra e ho visto che è veramente molto, è pieno molto fedele sicuramente, trovo che siano bravissimi gli attori, perché è un lavoro difficilissimo e anche qui si raggiunge lo scopo, perché si guarda molto, finisci col guardare il pupazzo e non l'attore, quindi il traguardo è raggiunto, veramente fatto e realizzato molto molto bene. Ci sono delle voci che molto spesso noi diciamo in Italia che non ci sono le voci, invece poi sentendo i ragazzi di Avenue Q... Ci sono molte voci, sembra che siano 40 attori, è spettacolare, davvero, davvero. Amico, quello che ti serve è un cambio di prospettiva. Forza, esci fuori e guardati intorno. No, grazie. Ho detto forza, Princeton! Muovi il culo e dai un occhio in giro, c'è la tutta fuori che aspetta. Lo so, non sembra così, ma la vita fuori ti aspetta. Devi solo scegliere quello che ti va, tutto quello che c'è per te, anche se non verrà mai, se tu resti qui. C'è la vita fuori che aspetta, ma devi uscire da qui. No, mi dispiace, io resto qui. Non fare così, io dovrò usare la forza. Rossana Casale, che ne pensa di questo Avenue Q in versione italiana? Eccezionale, sono tutti bravissimi, è veramente sorprendente, sono contenta perché quando vedi un bel lavoro proprio vai via felice, no? È un momento che si parla solo di crisi, che non va niente, che fa tutto schifo, invece vedi un bel music e esci fuori con tanta energia, sono veramente bravi, bellissimo allestimento, bello. E come cantante le voci? Fantastiche, uno più bravo dell'altro, credi, sia come attori che come cantanti, perché... Veramente difficile spostare la voce in continuazione così, perché ci sono degli attori come Maurino Simone, per esempio, che cambia voce in continuazione, perché fa vari personaggi, è veramente bravo. Il sole splende, che bel giorno è, un giro al parco in programma c'è, ma le bollette sono lì per me, come farò? Lavori duro ma già lo sai, sei sicuro non ce la fai, e quando timbre le sei già sai dove andrai, a casa Avenue Q, io vivo in Avenue Q, e sei laggiù, no, non andavo, ma io vivo in Avenue Q, tu vivi in Avenue Q, viviamo in Avenue Q. E prima di chiudere, due appuntamenti: la Sagra del Tordo sabato 24, oggi quindi, e domani domenica 25, una rievocazione storica a Montalcino, arrivato alla 52esima edizione, per ricordare il Medioevo, la caccia con il corteggio storico trecentesco, i falconieri, la gara con l'arco e i banchetti, ovviamente accompagnati dai famosi vini di Montalcino. Poi ricordiamo che sempre in Centro Italia Euro Chocolate a Perugia festeggia il suo ultimo weekend, e allora come non poter andare ad assaggiare questa magnifica cioccolata. Io adesso ringrazio Valerio Rocchetti in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a cartellone @radio24.it, mi raccomando, con un po' di anticipo sugli avvenimenti, e vi ringrazio a tutti, una buona giornata da Elisabetta Fiorito.